Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Mai come ora la parola ambiente è al centro delle politiche internazionali. Dopo che Stati Uniti e Cina hanno ratificato l'accordo di Parigi sul clima, ci si aspetta infatti che anche altri paesi facciano altrettanto. Europa e Italia in testa. L'accordo potrà entrare in vigore solo dopo la ratifica di almeno 55 stati firmatari, produttori del 55% delle emissioni globali. In vista di COP22, prevista per il 7 novembre in Marocco, sono molte quindi le iniziative sul tavolo per rendere concreti gli impegni presi un anno fa. Anche il settore dei trasporti avrà un ruolo centrale nel dibattito sulla riduzione dei gas serra, responsabili del riscaldamento globale. Dai trasporti delle persone a quello delle merci, dalla mobilità urbana a quella aerea, ferroviaria o marittima, l'obiettivo è quello di modalità sempre più sostenibili ed economiche, che utilizzino energie pulite e tecnologia all'avanguardia. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, anche l'Italia, come già fatto di recente da Cina e Stati Uniti, è pronta alla ratifica dell'accordo sul clima di Parigi, raggiunto nella capitale francese nel corso dell'ultima conferenza delle Nazioni Unite, la famosa COP21. Nonostante l'Italia stia comunque rispettando gli impegni presi in sede europea sul clima, è purtroppo infatti in ritardo sulla ratifica. Ma che cosa prevede questo accordo e quali saranno le conseguenze per la nostra economia e per il mondo dei trasporti? Ne parliamo in compagnia del nostro ospite, l'onorevole Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nonché uno dei fondatori e oggi presidente onorario di Lega Ambiente. Onorevole Realacci, innanzitutto che cosa prevede COP21 per quanto riguarda il clima? Prevede che ci sia un impegno di tutti i paesi del mondo, questo è stato molto importante questo accordo, per ridurre le emissioni di CO2 e in particolar modo per quanto riguarda i paesi più sviluppati, per aiutare anche i paesi che hanno più problemi dal punto di vista economico e che a volte sono quelli che pagano di più proprio per i mutamenti climatici a svilupparsi e a fronteggiare queste crisi. A Parigi la spinta che c'è stata da parte di tutti, forse anche ricordando il carisma che la Francia aveva acquisito con gli attentati terribili che avevano colpito Parigi, è stata: mettiamoci assieme per fronteggiare i mutamenti climatici e provare a costruire un'economia più a dimensione d'uomo. Ecco, l'obiettivo di Parigi è quello di mantenere entro i 2 gradi massimo l'aumento della temperatura rispetto all'età preindustriale, ma come si arriva a questo appuntamento? Ma io direi soprattutto usando quella grande fonte di energia, la più rinnovabile e meno inquinante che c'è, che è l'intelligenza umana. In realtà in quasi tutti i settori, perché poi questo è una scelta che riguarda ovviamente la produzione di energia, le abitazioni, l'edilizia, i trasporti, in quasi tutti i settori il principale obiettivo di riduzione si ottiene innovando le tecnologie, producendo pulito, e questo spesso è anche un fattore di competizione. Il consumare meno energia, favorire le fonti rinnovabili, fare case che rispondono di più a esigenze sia di sicurezza che di risparmio energetico è una straordinaria frontiera economica. Il mondo produttivo italiano deve essere preoccupato da questa ratifica? No, perché questa ratifica è anche una straordinaria occasione per noi di mettere a frutto i settori in cui siamo migliori. Potrei dire sulle macchine agricole, lo stesso potrei dire in tanti settori. Per esempio, pochi lo sanno, ma noi siamo leader in Europa nel recupero dei materiali, non tanto il riciclaggio dei rifiuti urbani, in cui abbiamo punte di eccellenza. Penso a Milano, che è assieme a Vienna la città sopra il milione di abitanti che ha la raccolta differenziata più alta d'Europa, oppure ai tanti comuni, non solo in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, ma anche in Campania, che hanno più dell'80% 40% di raccolta differenziata e punti di arretratezza fortissima, penso alla Sicilia che è una delle zone peggiori d'Europa sulla raccolta differenziata, ma un po' sull'insieme dei materiali noi siamo quelli che recuperano più materiali, metalli, carta, plastica, vetro, noi recuperiamo ogni anno 25 milioni di tonnellate di materiali, i tedeschi che hanno un'economia più grande della nostra 23 milioni di tonnellate, questo ci fa risparmiare ogni anno 15 milioni di tonnellate di petrolio e 50 milioni di emissioni di CO2, quindi quella che è una nostra virtù antica, noi perché siamo avanti? Siamo avanti perché siamo sempre stati un paese povero di materie prime e quindi gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami a Brescia e in tante altre zone sono state la nostra risposta alla mancanza di materie prime, quella che era una necessità oggi diventa una virtù e un'occasione, quindi l'economia italiana ha tutte le condizioni per guadagnare posizioni con consumi più a misura d'uomo, con consumi più sostenibili, con innovazione nel campo delle tecnologie. C'è un settore dell'economia italiana che è impegnato in prima linea su questo fronte, quello della sostenibilità, del recupero di punti su questa sostenibilità, e questo settore è quello dei trasporti. Ecco, cosa si dovrà fare in futuro per rendere questo settore sempre più compatibile con l'ambiente, tenuto conto anche dei tanti miglioramenti che ci sono stati in questi ultimi anni, parlo dell'Euro 6, parlo dei contributi per esempio in favore dell'intermodalità e quindi dell'utilizzo della ferrovia e del mare. Beh, non c'è una sola cosa da fare, ci sono tante politiche da mettere in atto, sicuramente anche qui questo sarà un tracciante. Il settore dei trasporti è un settore importante e difficile dal punto di vista delle emissioni, perché noi consumiamo circa un terzo dell'energia nei trasporti. No? E non è facile dire dimezziamo questo consumo. La prospettiva che per esempio già si vede nell'elettrico, io ricordo che oramai nel mondo gli investimenti nelle rinnovabili sono superiori a quelli su tutte le altre fonti e anche l'Italia ha il 40% dell'energia che è prodotta da fonti rinnovabili, energia elettrica che è prodotta da fonti rinnovabili. Nei trasporti il cambiamento è più difficile e più lento, però da un lato la riduzione delle emissioni per una maggiore efficienza, i dati che citava lei prima sono una prospettiva su cui l'Europa si sta muovendo e aggiungo sono anche una prospettiva che garantiscono di nuovo le industrie nazionali, perché molto spesso la concorrenza dei trasportatori stranieri avviene anche con mezzi che sono più arretrati, certo, più inquinanti, quindi certo, è anche una maniera per tutelare la superiore qualità dei nostri trasporti e poi sono tante altre misure, sicuramente nel trasporto privato si andrà verso l'elettrico oltre che sul metano, quella è una prospettiva su cui le grandi case stanno lavorando. Per quanto riguarda il mare, anche lì il mare è spesso trascurato, ma in realtà il combustibile che si usa nelle navi è il peggiore, è molto peggio di quello, e le navi soprattutto in Italia dove i porti sono tutti porti urbani, sono nelle città, sono una fonte di inquinamento oltre che di emissione di CO2 fortissima, per cui lì da un lato in prospettiva il passaggio anche lì al metano, al GPL, ma dall'altro, dico una cosa banale, far sì che almeno le grandi navi da crociera quando attraccano nei porti siano alimentate con l'energia elettrica direttamente anziché dover tenere in vita motori enormi. Diesel magari di vecchia generazione. Esatto, quindi è una politica in generale, ma anche in questa politica noi abbiamo tutto da guadagnare perché, ripeto, chi ci fa concorrenza è indietro su questi terreni e arrivare prima spesso significa guadagnare mercato. A proposito di motori diesel, un'ultima battuta invece sulla ricerca dei carburanti alternativi per autotrazione, ovviamente è andato avanti, ormai abbiamo biofuel, abbiamo il metano liquido, il metano compresso, insomma ci sono tante forme alternative ai carburanti tradizionali, quindi benzina e gasolio. Quale sarà secondo lei l'energia del futuro? Parliamo sempre di trasporti ovviamente. Penso che conquisterà spazio l'elettrico, no? Penso che tutte le cose dette vanno nella giusta direzione e che bisogna fare le cose per bene. Per esempio io penso che il biogas, quindi il biometano, abbia degli spazi molto più ampi in Italia. Ovviamente bisogna farlo bene, diceva Diderot, non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene, no? Certo. Nel senso che se si usa come materia prima cosiddetti combustibili cosiddetti di secondo, di terza generazione, cioè se non si sottrae, per capirci, spazio all'agricoltura, se non si usa il mais per fare il metano, ma per fare il gas, il percorso è virtuoso, no? Ci sono dei casi, penso agli Stati Uniti, in cui se uno va a calcolare, ma è un'agricoltura diversa dalla nostra, il bilancio energetico, per esempio, della produzione di etanolo, scopre che uno ci ha messo più petrolio per produrre quell'etanolo di quanta energia ne ricava dopo. Però diciamo, io penso che veramente, torno alle cose dette prima, se capiamo qual è la direzione, se in questa direzione mobilitiamo le migliori energie, e anche se, come sta in parte accadendo, i cittadini si attrezzano per nuovi modelli di consumo, le cose sono fattibili. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.